Le trombe di Gerico poterono abbattere le mura di una delle città più fortificate dell'antichità, è una storia che ci è tramandata antichissima e in cui si può leggere, volendo, qualcosa sul potere della musica, non necessariamente distruttivo, ma sicuramente molto forte. Le trombe in questo caso erano le trombe di John Hassell nel memorabile Brilliant Trees di David Sylvian. Sono le 3 in punto, però noi ci concediamo ancora 2 minuti soltanto, Massimo Cotto è presente, me li ha concessi personalmente, per chiudere esattamente come abbiamo cominciato, con quel personaggio di cui vi dicevo, vorrei cantare come lui, che si chiama Kevin Ayers. In questo caso molti dei suoi ospiti si riuniscono a lui per la canzone finale. C'è Robert Wyatt alle percussioni, c'è John Cale alla viola, c'è Brian Eno al sintetizzatore, c'è Mike Oldfield e Holly Alsall e lo stesso Kevin Ayers alle chitarre. 2 goes into 4. Naturalmente, se anche per voi è vero che Dreams Take Me So Far, se anche voi i sogni vi portano lontano, non c'è sicuramente un momento migliore di questo per farsi portare lontano dai sogni. Naturalmente conoscete perfettamente la nostra opinione, ovvero sia che per sognare non c'è assolutamente bisogno che vi mettiate a dormire, no. Anche se sono le 3 di notte, passate da qualche minuto, potete tranquillamente rimanere svegli. Anzi, personalmente vi consiglierei di alzare il volume. Questo soprattutto all'inizio dello spazio prossimo. E allora io me ne vado, continuando a sperare di cantare con la voce profonda e nonchalante di Kevin Ayers. Arriva Massimo Cotto per il terzo spazio musicale di questa notte. Io ringrazio Giovanni Andreani che è sostato in console negli ultimi 90 minuti, ma ringrazio naturalmente soprattutto voi che avete sostato davanti alla radio in questi ultimi 90 minuti. Io invece mi muovevo davanti al microfono a volte, soprattutto per parlare, per lo più nei meandri molto oscuri di un grande palazzo pieno di studi radiofonici. Noi non siamo abituati, noi abbiamo una casetta piccola, linda ma pulita, in via Po, voi conoscete il nostro indirizzo. Stanotte, come sapete, appunto, in trasferta giochiamo in un palazzo molto grande. L'indirizzo è anche più famoso, quello famoso di via Asiago, anche se poi di notte si entra ovviamente dalla porta posteriore. E allora tenete aperte tutte le vostre porte, metaforicamente, spero. Buon proseguimento e buon ascolto per questa notte. Le prossime volte ci possiamo pur sempre risentire. Ciao a tutti. Buona serata a tutti, benvenuti in questo terzo spazio di Rai Stereonotte da parte mia, dunque da parte di Massimo Cotto. E sicuramente vi fa molto effetto non trasmettere dai nostri studi di via Po 14, bensì qui nella credo mitica via Asiago. Della quale onestamente non invidio proprio nulla, se non una strana macchinetta che, mettendo dentro un certo numero di monete, fa scendere un liquido scuro chiamato caffè. Voi probabilmente pensate che così, nei nostri studi originari, cioè quelli veri di via Po, siamo sommersi non soltanto da macchinette o da tazzine di caffè, ma addirittura di pentole da pasta asciutta piene di quel liquido nero, e invece no. Chi di dovere, che non so se è il nostro capo Pierluigi Tabasso, se è la responsabile delle scalette, cioè Enzo Serra, o qualcun altro, magari qualche collega non proprio ben disposto verso di noi, ha deciso che per instaurare un'atmosfera notturna era anche necessario essere un tantino addormentati, quindi niente caffè. E allora, per ovviare a questo sentimento, a questa strana atmosfera che si respira questa notte, un po' da spaesato, un po' da sradicato quasi, abbiamo pensato bene di dedicare l'intero segmento per questi prossimi 90 minuti, dunque fino alle 4.30, fino a quando non giungerà Emiliano Nicastro a concludere questa nottata prima del giornale dall'Italia alle 5.45, dedicarlo, dicevo, al rock del furore. Colleghi altrettanto cattivi, non diciamo niente di più, hanno anche nascosto una cosa tristissima, vale a dire che non c'è una piastra, cioè in sostanza noi non possiamo mandare i brani che avevamo selezionato e che invece erano su cassetta, quindi non sarà una trasmissione raffazzonata, perché una trasmissione dal vivo è sempre una trasmissione che ha un certo margine di improvvisazione, forse un tantino incompleta. Avrei voluto farvi ascoltare un gruppo nuovo, si chiama Faith Brothers. Sono un po' i figli degli Alarm, un po' i figli dei Big Country, un po' i figli degli U2. Devono anche molto a Springsteen, a tutta questa nuova ondata americana. Come ha detto giustamente, una volta tanto diamo onore a loro, come ha detto, dicevo giustamente, la stampa inglese ultimamente, la cosa più importante di loro è l'idea e non tanto quello, cioè quello che rappresentano, e non tanto quelli che fanno o quello che dicono o quello che suonano. In sostanza, in una parola sola, sono ancora acerbi. Ma quanto prima, probabilmente già domani notte vi faremo così un piccolo assaggino loro. Questa sera invece i maestri. Sono le 3:09 minuti, U2, Big Country saranno con noi. Allora gustatevi questo brano che è già stato programmato qualche tempo fa, è una cover di un brano famosissimo di Bob Dylan, si chiama Knocking on Heaven's Door. E non c'è soltanto la presenza degli U2, non soltanto la presenza di Bono alle vocals, ma addirittura di Stuart Adamson e di Mike Peters, che sono rispettivamente le due menti originarie dei Big Country e degli Alarm. Tre grandi nomi, tre grandi gruppi, una grande canzone di un grande interprete, anche se probabilmente non profeta. Credo che sia un modo sufficientemente elegante e intelligente, perché no, di iniziare questo terzo segmento, Knocking on Heaven's Door. Thank you. 29 marzo 1983 all'Hammersmith di Londra, questa Knocking on Heaven's Door, cover di Bob Dylan. Allora, pronti per seguire questo grande gruppo? I Will Follow. Opera prima, opera d'esordio, gioiosa, primaverile, trascinante. E chi non li segue, questi qui? Molta gente da allora li ha seguiti e fra l'altro i prossimi due brani sono proprio tratti alla loro prima apparizione in televisione. È il 28 febbraio del 1981, una registrazione sicuramente rara, uno show alla BBC, alla Old Grey Whistle Test, che vede la partecipazione di artisti che sono proprio al loro debutto televisivo. E fra l'altro il primo brano, The Ocean, fa parte del primo LP, Boy, da cui abbiamo tratto questa I Will Follow, mentre l'altro brano che seguirà immediatamente, 11 O'Clock Tick Tock, è il primo singolo che è stato registrato appunto in Gran Bretagna e sono usciti entrambi nel 1980. Band from Ireland also won almost every possible category in a major Irish poll. They make their debut on Whistle Test tonight as our first studio guest to play The Ocean, U2. Sorry in gray. love to sing it with you too. It's 11 o'clock. Tick tock. Yeah. La musica mi ha cambiato, essa è in grado di cambiare una generazione. Guardate cosa è successo col Vietnam. La musica mutò l'attitudine verso la guerra di un'intera generazione. La rivoluzione inizia a casa tua, nel tuo cuore, nel tuo rifiuto di scendere a compromessi con le tue convinzioni e i tuoi valori. Se la politica è prendersi a sassate, a bastonate, non mi interessa. Allora mi interessa la politica dell'amore, perché penso che non ci sia niente di più radicale di due persone che si amano, perché è una cosa così poco frequente. È dedicata a Martin Luther King. In origine parlava di Ronald Reagan e dell'atteggiamento ambivalente che c'è oggi in America. Parlava di quell'orgoglio che obbliga a rifiutarsi di abbandonare la lotta, che vuole che siano messi in piedi gli arsenali nucleari. Ma non funzionava. Allora mi venne in mente un vecchio saggio che una volta mi disse: non combattere l'oscurità con la luce, rendi invece più luminosa quella luce. Stava dando a Reagan troppa importanza, quindi pensai: Martin Luther King, ecco l'uomo giusto. Battersi per realizzare qualcosa è meglio che battersi per distruggere qualcos'altro. Tutto tranquillo a Capodanno. Un mondo in bianco si mette in moto. Io voglio essere con te. Essere con te notte e giorno. Non cambia niente il primo giorno dell'anno. Io sarò di nuovo con te sotto un cielo rosso sangue. Si è raccolta una folla in bianco e nero, braccia aggrovigliate. I pochi prescelti dicono, i giornali dicono, si dice che è vero, e noi possiamo farcela. Sebbene divisi in due possiamo essere tutt'uno. Io ricomincerò da capo, forse è il momento buono stanotte, e sarò di nuovo con te. Così ci hanno detto che questa è l'età dell'oro, e l'oro è la ragione delle guerre che combattiamo. Sebbene io voglia stare con te, non cambia niente a Capodanno. La domanda non dovrebbe essere perché abbiamo voluto lavorare con Brian Eno, piuttosto perché ha voluto lavorare lui con noi, una piccola patetica rock and roll band di Dublino, che secondo i critici inglesi dopo Boy non è più riuscita a fare un buon disco. Qualcosa nella nostra musica deve pure averlo attirato. Nel corso degli ultimi 5 anni ogni gruppo in questo paese ha cercato di contattare Brian Eno, ma la proposta degli U2 è stata la sola che lui ha accettato. Erano 3 anni che ascoltava soltanto musica gospel. È stato lo spirito con cui facevamo musica, il senso di abbandono che c'è in essa, che ha fatto sì che lui si interessasse a noi. E grazie a lui, noi abbiamo riscoperto lo spirito della nostra musica e abbiamo acquistato fiducia in noi stessi. Quando registravamo, l'accento era posto sulla spontaneità, sull'unicità di certi momenti irripetibili. L'atmosfera era molto rilassata. Così Elvis Presley and America l'abbiamo incisa in 5 minuti. Eno non ha fatto altro che porgermi un microfono e dirmi di cantare sulla base, che era stata rallentata, suonata al contrario, qualcosa del genere. Io gli ho detto, come, così, adesso? E lui, sì, è quello che devi fare. Io l'ho fatto e alla fine sono saltate fuori tutte quelle magnifiche linee melodiche. Allora ho detto, ok, non vedo l'ora di completarlo. E lui, che accidenti vuol dire completarlo? È già completato così. Maurice Ravel.